Tu fa avvicinare tuo fratello Aronne e i suoi figli con lui dal mezzo dei figli di Israele, perché sia mio sacerdote, perché sia mio sacerdote. Aronne, Nazaro, Itamar, figli di Aronne. Farai vesti sacre per tuo fratello Aronne in gloria e decoro. Tu parlerai a tutti i saggi di cuore che ho riempito di spirito di saggezza e faranno le vesti di Aronne per consacrarlo e perché sia un sacerdote. Ecco le vesti che faranno: pettorale, efod, mantello, tunica incastonata, turbante e cintura. Faranno vesti sacre per tuo fratello Aronne e per i suoi figli, perché sia mio sacerdote. Essi useranno oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso. Faranno l'efod d'oro, di porpora viola, di porpora rossa, di scarlatto e bisso ritorto il lavoro artistico. Avrà due spalline attaccate. Sarà attaccato alle sue due estremità. La cintura che è sopra l'efod sarà dello stesso suo lavoro: oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. Prenderai due pietre d'onice e inciderai su di esse i nomi dei figli di Israele, sei dei loro nomi sulla prima pietra e i nomi dei sei che restano sulla seconda pietra secondo la loro nascita. Secondo il lavoro dell'intagliatore di pietra che incide un sigillo, inciderai le due pietre con i nomi dei figli di Israele. Le farai inserire in castoni d'oro. Metterai le due pietre sulle spalline dell'efod, pietre memoriale per i figli di Israele. Aronne porterà i loro nomi davanti al Signore sulle sue due spalle in memoriale. Farai i castoni d'oro e farai ad essi due catene d'oro puro in cordoni, lavoro d'intreccio. Metterai le catene a intreccio sui castoni. Farai il pettorale del giudizio, il lavoro artistico. Lo farai come il lavoro dell'efod. Lo farai d'oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. Sarà quadrato, doppio, lungo una spanna e largo una spanna. Lo coprirai di pietre in quattro file. Prima fila, cornalina, topazio, smeraldo. Seconda fila, turchese, zaffiro, diamante. Terza fila, giacinto, agata, ametista. Quarta fila, crisolito, onice, diaspro. Saranno inserite mediante castoni d'oro. Le pietre corrisponderanno ai nomi dei figli di Israele, 12 secondo i loro nomi. Saranno incise come sigilli, ciascuna con il nome corrispondente, secondo le 12 tribù. Farai sul pettorale catene a cordone, lavoro d'intreccio d'oro puro. Farai sul pettorale due anelli d'oro e metterai i due anelli sulle due estremità del pettorale. Metterai le due catene d'oro sui due anelli alle estremità del pettorale. Le due estremità delle due catene le porrai sui due castoni e le metterai sulle spalline dell'efod nella parte anteriore. Farai due anelli d'oro e li metterai sulle due estremità del pettorale, sul suo orlo, che è sull'altra parte dell'efod, all'interno. Farai due anelli d'oro e li porrai sulle due spalline dell'efod, in basso, sul suo lato anteriore, vicino al suo attacco, al di sopra della cintura dell'efod. Si legherà il pettorale con i suoi anelli agli anelli dell'efod, con un filo di porpora viola, perché sia sopra la cintura dell'efod e il pettorale non si possa muovere da sopra l'efod. Aronne porterà i nomi dei figli di Israele sul pettorale del giudizio, sul suo cuore, quando entrerà nel santo, in memoriale perpetuo davanti al Signore. porrai nel pettorale del giudizio gli Urim e i Tummim. Saranno sopra il cuore di Aronne quando entrerà davanti al Signore, e Aronne porterà il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti al Signore in perpetuo. Farai il mantello dell'efod completamente di porpora viola. Nel suo mezzo ci sarà un'apertura per la testa. Intorno all'apertura ci sarà un orlo lavorato in tessitura. Sarà come l'apertura di una corazza che non si lacera. Farai sul suo lembo melagrane di porpora viola, porpora rossa e scarlatto intorno al suo lembo, ed in mezzo ad esso, all'intorno, campanelli d'oro. Un campanello d'oro e una melagrana. Un campanello d'oro e una melagrana intorno al lembo del mantello. Aronne lo userà nell'officiare, e il suo rumore si sentirà quando entrerà nel santo, davanti al Signore, e quando ne uscirà. Così non morirà. Farai una lamina d'oro puro, e vi inciderai come su di un sigillo, consacrato al Signore. L'attaccherai con un cordone di porpora viola al turbante sulla parte anteriore. Sarà sulla fronte di Aronne, e Aronne porterà la colpa che potranno commettere i figli di Israele in occasione delle offerte sacre da loro presentate. E sarà sulla sua fronte per sempre, in loro favore, davanti al Signore. Tesserai la tunica di bisso, farai un turbante di bisso, farai una cintura in lavoro di ricamatore. Per i figli d'Aronne farai tuniche e cinture, farai loro anche dei copricapo a gloria e decoro. Ne rivestirai tuo fratello Aronne insieme ai suoi figli, li ungerai, li investirai, li consacrerai e saranno miei sacerdoti. Farai loro dei calzoni di lino per coprire la carne nuda. Saranno dai reni alle cosce. Aronne e i suoi figli li indosseranno quando entreranno nella tenda del convegno e quando si avvicineranno all'altare per officiare nel santo. Così non porteranno colpa e non moriranno. Statuto perenne per lui e per i suoi discendenti.